gli speciali di Radio 24. ITS, gli istituti tecnici superiori, 10 anni di vita e 11.000 iscritti, di Maria Piera Ceci. Tecnici superiori compiono 10 anni ed è l'occasione per fare il punto su questi percorsi post diploma professionalizzanti di cui parliamo spesso qui su Radio 24. Gli ITS al momento sono 101 e rappresentano un'interessante alternativa all'università, se si pensa che secondo l'ultimo rapporto del monitoraggio nazionale aggiornato al 31 ottobre 2018, realizzato da Indire per conto del MIUR, l'82% dei diplomati ITS trova lavoro entro un anno dalla fine degli studi e l'87% di loro ha un'occupazione coerente con il proprio percorso. Niente male in un paese dove la disoccupazione giovanile resta, come sappiamo, su livelli altissimi. Dicevamo che al momento gli ITS sono 101, che propongono 470 percorsi a 11.350 studenti iscritti. Il numero maggiore di ITS si registra in Lombardia con 20 ITS, la Campania ne ha invece 9, poi c'è l'Emilia-Romagna, Lazio, Piemonte, Toscana e Veneto che ne hanno 7, poi a scendere la Puglia 6, Sicilia e Calabria 5, Marche, Liguria, Friuli Venezia Giulia e Abruzzo 4, Sardegna 3, Molise e Umbria 1. 8.700 le imprese coinvolte nei percorsi formativi che beneficiano di un contributo nazionale di circa 13 milioni di euro. Una realtà dunque interessante ma ancora troppo poco conosciuta. Sono infatti poche le scuole superiori che parlano degli ITS ai propri studenti impegnati a disegnarsi un futuro dopo la scuola superiore. Eppure rappresenta una realtà che sta facendo anche passi avanti e presenta alcune novità. Fra queste, in programma, la creazione di campus tecnologici ITS. A parlarne in occasione di Job e Orienta, il Salone Nazionale della Scuola e della Formazione che si è tenuto a fine novembre a Verona, Alessandro Mele, presidente dell'Associazione Fondazioni ITS Italia. Con le regioni abbiamo aperto un dialogo molto costruttivo e interessante per lanciare i campus ITS universitari. Questa è una delle grandi novità che l'Associazione Nazionale Rete Fondazioni ITS Italia sta promuovendo negli ultimi mesi, anche in dialogo con il governo, oltre con le regioni, con le fondazioni filantropiche e il sistema delle banche. In che cosa consiste esattamente? L'idea è dare quindi spazio fisico, come dicevo, sedi, laboratori, studentati e tutti i servizi connessi, quindi non solo erogazione di corsi in modo diffuso, ma fisicamente una entità incontrabile dove i ragazzi arrivano, trovano la segreteria, i docenti come una istituzione internazionale. Sappiamo che i ragazzi che escono dagli ITS hanno un indice di occupabilità molto alto, si può fare di più perché non tutti comunque gli ITS hanno questi indici poi. Se la media nazionale è 82% e siamo ancora ovviamente ad assetto variabile sulle diverse aree, sui diversi territori, vuol dire che molti ITS hanno un'occupazione del 100%. Alcuni ragazzi non riescono neanche a finire il percorso che hanno già offerte di lavoro molto allettanti e quindi grande tentazione per interrompere gli studi e cominciare percorsi di lavoro. L'occupazione degli ITS è sicuramente la risposta alla grande disoccupazione, grave disoccupazione giovanile e alla carenza cronica di tecnici specializzati che il paese lamenta da ormai 50 anni. La seconda manifattura d'Italia non può non investire sulla formazione tecnica. Teniamo anche presente che il 50% circa dei ragazzi, finito il diploma, non accede all'università. Oltre al fatto che l'università ha una nota grave dispersione universitaria, quindi stiamo parlando di circa l'80% della popolazione che non arriva ad una laurea. Che cosa faremo per questi ragazzi per portarli alla pensione dopo il 2060? Sicuramente l'investimento sugli ITS è la chiave del successo. L'investimento sugli ITS può essere la chiave del successo, da un lato dunque la nascita di una sorta di campus, dall'altra l'alleanza con le università come a Torino, dove sono in fase di progettazione percorsi di laurea professionalizzanti nel campo dell'ingegneria della produzione industriale, meccatronica e tessile. Nel piano strategico presentato dal Politecnico di Torino in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico è previsto il potenziamento della formazione professionalizzante e la nascita nascita di un nuovo corso ITS in ingegneria della manifattura. I giovani potranno dunque scegliere fra tre percorsi: il percorso di laurea di 3 anni all'interno del Politecnico, con corsi strutturati su un percorso professionale, oppure 2 anni di ITS con il conseguimento del diploma superiore, oppure dopo i 2 anni di ITS potranno aggiungere un terzo anno per acquisire una laurea professionalizzante. Si tratta di percorsi nuovi, molto collegati con le imprese, alla stregua di quelli offerti nei paesi del Nord Europa, ci ha spiegato Ermanno Rondi, responsabile del gruppo tecnico di Confindustria per la formazione professionale e l'alternanza scuola-lavoro. Sono dei percorsi nuovi, molto collegati con le imprese, che finalmente rendono il nostro paese alla stregua dei paesi del Nord Europa, dove i ragazzi possono fare una scelta su 3 percorsi terziari: o la laurea classica, che poi si divide in laurea breve e laurea magistrale, o la laurea professionalizzante, o un percorso ITS che è fatto da 2 anni e consente già un primo livello d'uscita, oppure aggiungono un terzo anno per arrivare anche loro a una laurea di tipo professionalizzante. A fianco del Politecnico in questo progetto la Fondazione ITS Aerospazio e Meccatronica Piemonte. Sentiamo il presidente Stefano Serra. L'ITS Meccatronica Aerospazio del Piemonte sicuramente insiste su 2 filiere importantissime a livello industriale per la regione. Ha delle strutture al momento distribuite, ma stiamo lavorando per la cittadella delle professionalizzanti in tandem con il Politecnico. Un'integrazione tra il mondo dell'Accademia e il mondo degli ITS, primo esempio in Italia. E stiamo parlando di 30.000 metri quadri che diventeranno la città delle professionalizzanti. Per quanto riguarda il nostro ITS abbiamo dei risultati estremamente interessanti, perché parliamo di un'occupabilità al 98% e stiamo parlando di un raddoppio del numero degli iscritti quest'anno. Siamo passati da 75 a 134 ragazzi che sono entrati, e l'obiettivo ovviamente è di continuare a crescere con questi ritmi. Quali sono i punti di contatto con il Politecnico? Ci sarà anche uno scambio a livello di docenze? Assolutamente sì, c'è un interesse mutuo. Da un lato per la docenza frontale, sicuramente il Politecnico esprime un'eccellenza per quanto riguarda la parte di esperienziale, quindi di laboratori, e la parte, diciamo, il sapere del fare, come lo chiamiamo noi. Indubbiamente gli ITS riescono ad esprimere una elevatissima qualità. Che fine fanno poi questi ragazzi usciti dall'ITS di Torino? Ma il problema è riuscire a fargli finire il corso, perché le aziende sono estremamente interessate a questi profili. Quali sono le aziende che sono dietro al vostro ITS? Ma passiamo da aziende nell'aerospazio del calibro di Leonardo Velivoli e EG Avio Aereo, piuttosto che UTAS, a imprese come Fiat, se parlo di grandi nomi, e poi c'è una pletora, ma tantissimi, diciamo 2/3, sono PMI che magari lavorano in questi indotti o che stanno convertendo i loro modelli di business, e diciamo oggi il problema è aumentare la capacità, non trovare la domanda. E non ha fatto fatica di certo a trovare lavoro Stefano Pegolo. Stefano ha 23 anni, si è appena diplomato all'ITS Aerospazio e Meccatronica Piemonte. Ho fatto l'apprendistato presso il centro di ricerche Fiat di Orbassano a Torino, con consecutiva assunzione a tempo indeterminato. Qual è la tua funzione? Quella di gestione di diagnosi delle componenti elettrico-elettroniche sulle vetture di sviluppo. Com'è stata l'esperienza ITS? È stata molto stimolante, ho avuto l'opportunità di entrare a contatto con le aziende, e una cosa che a me è piaciuta molto del corso ITS è il fatto che potevo studiare e potevo anche vedere ciò che avevo studiato, toccarlo con mano, quindi le ore di laboratorio sono state molto utili e mi è servito anche in azienda per non farmi trovare impreparato, tra virgolette, nel momento in cui mi si chiedeva di fare una cosa. Io tramite il corso ho acquisito delle competenze tali da poter spenderle in azienda. Gli speciali di Radio 24. Gli speciali di Radio 24. Torniamo a parlare di ITS e delle novità che stanno emergendo. Sempre a Giobbe Orienta, a Verona, c'è stata la firma di un protocollo d'intesa nel comparto del tessile e della moda. Nasce la rete nazionale degli ITS e di quella degli istituti tecnici e professionali della moda. A firmare il protocollo il ministro dell'istruzione Marco Bussetti. Questa è un'alleanza che è un altro segno tangibile di quanto noi stiamo lavorando sul tema degli ITS, che per noi è strategico come momento di passaggio dal mondo della formazione al mondo del lavoro, perché va incontro e crea veramente quella sinergia tra questi due mondi che devono invece parlarsi e lavorare insieme. L'altra firma invece è stata quella del presidente del Sistema Moda Italia, Marino Vago, che ci spiega il senso di questa operazione. Partire con un progetto a livello nazionale credo che sia il modo giusto di affrontare tutte le necessità del nostro sistema, che è fatto di tante industrie in rete, tanti piccoli anelli di una grande catena dove ci sono grandissime specializzazioni. Quindi però l'importante è di avere una visione coordinata delle necessità formative, credo che sia la base del lavoro che dobbiamo svolgere per arrivare a sostenere questa filiera produttiva che è unica in Europa. Filiera produttiva che, come diceva, ha bisogno di tante figure professionali. Quali sono quelle di cui avete maggiore esigenza? Tutte sono trasversali al settore, partono dai tecnici di, possiamo dire, di filatura, di tessitura, di orditura, dai chimici tintori. Quanto è importante il ruolo degli ITS in questo senso? Molto, perché il cambiamento produttivo e anche l'impulso che ha dato l'industria 4.0 richiede figure sempre più specializzate che sappiano coniugare il saper fare, l'esperienza, quella conoscenza artigianale che c'è ancora nelle nostre produzioni con tutto quello che la tecnologia può offrire. Quindi ci vuole queste nuove, chiamiamole nuove figure, che abbiano il saper fare, l'arte coniugata con gli strumenti moderni. I dati Excelsior Unioncamere parlano infatti di un comparto che nei 5 anni 2017-2021 metterà a disposizione ben 47.500 posti di lavoro, a fronte di soli 3.000 iscritti in indirizzi nell'area del tessile. Dunque davvero un comparto che avrà bisogno di molti tecnici specializzati. Allora andiamole a conoscere gli ITS che fanno parte di questa rete nazionale degli ITS e degli istituti tecnici e professionali della moda. Siamo a Scandicci, in provincia di Firenze. ITS Mita, Made in Italy Tuscany Academy, inserita anche nella sperimentazione avviata a livello nazionale dal Ministero dell'Istruzione nell'ambito dell'Industria 4.0. Antonella Vitiello, direttore generale di ITS Mita. L'ITS nasce su uno dei distretti di grande produttività del luxury mondiale, soprattutto per la pelletteria, piccola pelletteria, accessori moda, portafogli, borse, cinture, eccetera, eccetera. Una tradizione dell'area metropolitana fiorentina importante. Adesso quanti ragazzi avete? Adesso abbiamo quasi 400 ragazzi. Perché che formate come e sono destinati a che cosa? Allora, sono destinati a tutti i profili tecnici nel sistema moda del settore abbigliamento, pelletteria, calzature, minuterie metalliche. Che destinazione hanno questi ragazzi? Cioè, quando escono trovano in effetti lavoro e dove? Allora, i nostri ragazzi, ormai è noto, indice di occupabilità 100% negli ultimi percorsi. Le destinazioni sono i grandi brand oppure quelli che nel sistema chiamiamo terzisti, ovvero le aziende che producono per i grandi brand, dai nostri soci fondatori del gruppo Kering, quindi Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent, a tutte le altre Griff, Ferragamo, Prada, Chanel, Dior, eccetera eccetera, quindi tutto il mondo del lusso. Che cosa significherà questa alleanza da un punto di vista pratico? Significherà avere la possibilità di interscambiare docenze, studenti, esperienze, conoscenza dei settori produttivi su tutto il territorio nazionale e anche internazionale. Uscita dall'ITS Mita di Scandicci, Francesca Buchignani, 28 anni, ci racconta la sua esperienza. Io mi sono specializzata in tecnico di processo per la lavorizzazione delle materie prime. Quindi ho vissuto la realtà di Santa Croce sull'Arno. In che cosa consiste questa? Consiste, la realtà che noi Firenze vantiamo è la produzione di materie prime, pelle, e dove tutto il mondo ci invidia. Quindi a contatto con le concerie, con i calzaturifici, le pelletterie. Svolto queste ore di teoria, è arrivato il momento di iniziare a lavorare e sono stata assunta nella Balenciaga, che fa parte del gruppo Kering. E lì ho iniziato a lavorare sul serio, quindi a conoscere la realtà della pelletteria, la modelleria, tutte le figure che sono a contatto con lo stilista, con lo sviluppo prodotto. La mia specialistica lì all'interno di Balenciaga è analista consumi. Com'è stata l'esperienza ETS? È stata molto interessante e mi è servita per mettere delle basi per poi continuare a crescere sempre di più e imparare e portare avanti questo know-how. Da Scandicci a Padova, dove si trova la sede della Fondazione ITS Cosmo, nuove tecnologie per il Made in Italy, comparto moda. Il direttore Roberto Gigliotti. Allora, la Fondazione ITS Cosmo si è costituita nel 2011 per volere di 7 soci fondatori e oggi conta circa 50 soci partner della Fondazione, includendo università, aziende, scuole, enti datoriali, e quindi da questo punto di vista è rappresentativa delle diverse realtà dei territori. La carta vincente che ha messo sul tavolo la Fondazione è stato il fatto di collocare le attività formative all'interno dei distretti produttivi, per cui c'è un'esatta sovrapposizione tra i distretti produttivi del Veneto e della Lombardia e le sedi presso le quali noi stiamo svolgendo l'attività formativa in questo momento. Quindi distretto dell'occhialeria a Longarone, distretto della calzatura classica presso la Riviera del Brenta, distretto dello Sport System a Montebelluna, distretto della pelle della concia ad Arzignano, abbigliamento a Padova, oreficeria a Vicenza. Analogamente in Lombardia, marketing e comunicazione a Milano, tessile a Busto Arsizio. Nasce questa alleanza fra vari ITS che operano nel mondo della moda. Quale vuole essere il valore aggiunto? Diciamo che si tratta più che altro di una formalizzazione, nel senso che nel corso degli anni si sono instaurati dei rapporti tra i vari ITS su tutto il territorio nazionale, quindi una serie di progetti che sono stati condivisi proprio per aumentare la visibilità delle fondazioni e soprattutto convergere su alcuni progetti legati alla sostenibilità o ad altre materie che costituivano temi condivisi da parte delle varie fondazioni. Oggi si sente proprio la necessità anche di formalizzare questa rete e quindi con il supporto di SMI, quindi Confindustria Moda, diamo origine a questa rete degli ITS a livello nazionale. Condivideremo una serie di progetti che riguardano non solo la promozione degli ITS, ma la promozione delle figure professionali, anche in considerazione di un dato che in questo momento è sotto gli occhi di tutti. Sulla base delle ultime ricerche, da qui a 2-3 anni il sistema moda avrà bisogno di 47.000 tecnici. 47.000 tecnici da formare a Scandicci, a Padova, ma anche al sud, in Campania. Allora sentiamo Carlo Palmieri, presidente di ITS Moda Campania. Noi da imprenditori e da aziende che facciamo parte appunto di un'associazione e appunto di corpi intermedi, diciamo spesso che piccolo non è più bello, che bisogna fare rete, sinergie, e anche gli ITS ovviamente hanno secondo me un dovere di fare rete, perché l'offerta deve essere unica, l'offerta deve essere di qualità e bisogna anche comunicare bene quello che noi vogliamo fare. ITS Moda Campania, quanti ragazzi ha, quando è nato? È un ITS giovane, ancora deve compiere un anno, è formato da 40 soggetti, di cui 4 enti pubblici, Comune di Napoli, Comune di Caserta, Comune di Solofra per i Pellami, Comune di Caserta per San Leucio e Comune di Nola. Poi ci sono due università, la Partenope e la Vanvitelli della Campania, ci sono associazioni come Sistema Moda Italia e tante aziende. Quanti ragazzi ospita e qual è la loro destinazione, diciamo? E sono due corsi, uno che si tiene a Solofra, appunto sulla industria dell'evoluzione tecnologica, industria 4.0, legato appunto alla sostenibilità e quindi all'area diciamo della concia e quindi dei pellami, mentre invece il principale in termini termine anche numerico, gestito dalla scuola che è capofila della nostra fondazione, che è Isabella d'Este Caracciolo, e su questo ci sarà appunto una preparazione per i giovani che sono usciti dagli istituti tecnici per entrare in azienda e dare il loro apporto tecnico di qualità. Ecco, il tessuto produttivo campano necessita di queste figure professionali, hanno uno sbocco occupazionale quindi questi ragazzi? Assolutamente sì, parte questa nostra fondazione appunto dalle esigenze e dalle richieste delle aziende che fanno parte della fondazione, l'evoluzione anche della moda, che è un comparto può sembrare tradizionale, per competere a livello globale ha bisogno di tecnologia, ha bisogno di nuove figure professionali. Quali sono le figure professionali esattamente che voi cercate, di cui voi avete bisogno? La cosa più, diciamo, che può dare un senso di approccio positivo sembra stilisti eccetera, invece noi vogliamo entrare un attimino più sul tecnico, quindi un mestiere o un lavoro, un'attenzione alla parte tecnica, perché per arrivare alla sfilata, dietro una sfilata c'è tanto tecnicismo, persone che stanno e lavorano nell'ombra e quindi che producono e danno una mano al prodotto finale con una tecnica. Ed è tutto per questo speciale che abbiamo dedicato agli ITS, alle novità a 10 anni dalla legge che li ha istituiti. Un saluto da Maria Piera Ceci.